Spostiamo l'osservazione verso il mondo che ci circonda. Ma anche solo un filo d'erba, dice Tommaso d'Aquino, celeberrimo filosofo e teologo, anche un filo d'erba può essere considerato un mistero. Un atomo, una formica, un insetto, un virus. Siamo in mezzo al mistero. Tutto l'universo che noi conosciamo, ma come lo conosciamo? Superficialmente. Penso che nessuno di voi si sia fermato una notte stellata a contare le stelle. E quelle che si vedono sono la minima parte. Sono quasi un niente, una minima rappresentanza di tutte le stelle del firmamento. Per misurare la distanza si devono usare cifre strane, anni luce, anni luce. Ma dico che se l'universo è così grande, è stupendo, noi ne conosciamo la minima parte, ma anche di quei fili d'erba che sono sul prato, che io vedo dalla finestra, sono misteri di cui conosciamo solo una parte. Ah, ma però adesso noi abbiamo le formule chimiche, con le formule chimiche facciamo tutto, e queste formule chimiche su che cosa sono fondate? Sul creato. E tu pensi d'averlo esaurito il creato con quattro formule chimiche? Ma quando il nostro professore di chimica nel liceo classico, bravissimo, papà di famiglia, intelligente, studioso, bravo, ci dettava delle formule chimiche, guardate che ve ne ha detto soltanto alcune, sapete, quelle che è necessario sapere agli esami, e a noi pareva che fossero tante e noiose queste formule chimiche, e ci diceva il professore, è un niente questo. Ah, le formule chimiche, possiamo fare formule chimiche di tutto quello che esiste? E chi è che può dire di averle fatte tutte queste formule chimiche? Comunque a noi seccavano, perché bisognava mandarle a memoria e all'esame si era interrogati su quelle, ma forse un centinaio di formule chimiche, a dire molto. E a noi studenti sembrava di saperla lunga, perché sapevamo a memoria un centinaio di formule chimiche. Ora un farmacista si mette a ridere, ora un medico si mette a ridere, altro che 100 formule chimiche. E quando noi le avessimo conosciute tutte, quelle finora conosciute, saremmo ancora alla prima pagina di questo immenso volume che si chiama la creazione, il creato, l'universo, il mondo. Quante parole! Questa è la prima casa che si riassume tutta in ogni uomo. L'uomo è sintesi del creato. Sintesi vuol dire compendio, riassunto. In piccolo microcosmo c'è tutto il macrocosmo, tutto. Il movimento delle stelle nel cielo, sapete dove lo possiamo scoprire noi? Padre, non sono mica un astronomo io. Il circolo del sangue nelle nostre vene, nelle arterie, riflette il movimento delle stelle, le corse pazzesche, diremmo noi, delle stelle. È la corsa del nostro sangue che va e viene in quest'orbita che era il nostro corpo. Meraviglie. Questa è la prima casa fatta su da Dio. Per questo io oso dirvi a priori, a prioristicamente, che non ci sarà nessuna mente, per quanto eccellente, umana, che possa capire tutto il creato. Ma ne manco tutti gli scienziati di ieri, di oggi e del futuro potranno capire tutto il creato. Perché tutto il creato non è Dio, lo supera Dio. E il creato è qui a dirci quanto Dio è grande. È un documento il creato, un documento di riconoscimento di Dio. Non è Dio, è un documento che però deve darti un aiuto, perché tu scopra anche col lume della ragione l'immensità di Dio. È logico, a priori dunque, che l'universo sia grande, grande, grande, sconfinato, sconfinato, perché deve farmi sentire i fremiti dell'infinito Dio, il quale supera il creato infinite volte.